Buonasera a tutti gli ascoltatori di 451 Frammenti Sonori, siete sempre in ascolto di Radio Città del Capo e noi di 451 rientriamo in diretta dopo un po' di tempo di assenza, almeno in coppia. La scorsa settimana ha coperto perfettamente bene da solo il buon Max Macchia, che ovviamente è qua con noi, dunque un saluto da Max Macchia. Con noi chi, scusa? Adesso ti dai il plurale maiestate, scusa. Sì, anche è una voce molto calda, non lo so dove come la tua o la mia? La tua. Mia, ma io sono molto sexy. Ah, cioè, stasera sei in versione sexy. È adesso che ti metti un po' di ormone anche a te. Ma questa voce qua è abbastanza buona, dai, mi soddisfa. Comunque un saluto da Max Mac e Elisio Scarpa. Rientriamo in coppia dopo un po' di puntate che non abbiamo costruito insieme, ma appunto stasera abbiamo finalmente siamo riusciti a presentarci agli ascoltatori con una trasmissione, un'idea che comunque sta molto dentro questi tempi, direi quasi da un anno, per noi da molto di più, però un anno, perché la situazione ovviamente di crisi economica, sociale, culturale, politica, chi più ha più ne metta, sta proprio a pennello rispetto all'argomento di stasera. Già la scorsa puntata condotta da Max Macchia era bella terroristica dal punto di vista sonoro. Qua non avremo questo tipo di approccio terroristico sonoro, ma un terrorismo diverso, direi immaginario, un po' immaginario. Catastrofista. Infatti arte e catastrofe poi è una faccenda piuttosto grossa che riguarda buona parte delle arti musicali che passano qua a 451 Frammenti Sonori, ma non solo, visto che la catastrofe e le catastrofi hanno mosso grandissimi autori, pittori, architetti addirittura. Uno potrebbe pensare, come l'architettura? Eh sì, cari miei, molti architetti espressionisti e vicini all'avanguardia poi si sono mossi anche un'idea non soltanto di decostruzione ma anche di catastrofe, fino ad arrivare insomma agli estremi dei dadaisti che facevano le case che crollavano per abitanti che appunto volevano decostruire completamente la loro vita, probabilmente per abitanti di un altro mondo. E forse le musiche di questa sera rappresentano, se vogliamo, sicuramente una lettura e un'immagine catastrofica del presente o di quello che insomma può essere rapportabile ai nostri giorni, quindi anche pescato nel passato, ma può essere anche una forma distopica, quindi di un'utopia negativa e quindi in un certo qual modo una sorta di fuga al negativo che si compie rispetto appunto a una situazione di grande catastrofe che, come diceva appunto Eliseo, riguarda veramente tutto. E se non ve ne siete ancora resi conto, o siete ricchi e non ve ne frega niente e non state magari ascoltando 451 Frammenti Sonori, lo state ascoltando per sbaglio, o insomma va male, ragazzi, ma va male soprattutto per voi che non avete coscienza di quello che sta accadendo. Se poi vi date la colpa, ancora peggio. Ma chi, questi ricchi o anche no, io parlo a un ascoltatore che poi non so quanto ci sia, però insomma, quello un po' quello virtuale nostro, quello che sta bene, no? Sì, è quello che sta bene, quello che non frega niente. Sì, che non ci ascolta, quindi parlo così a nessuno in sostanza. E poi parlo anche a chi invece si colpevolizza, dire ma è colpa mia, robe, che fa male, non è così, è una struttura economica, sociale, politica che ha un nome, non un cognome, per fortuna basta il nome, avanza, si chiama capitalismo, è una struttura, qualcuno ogni tanto se lo scorda e questa struttura appunto ha come dire, ramificazioni eccetera eccetera dentro appunto anche le nostre vite, soprattutto quelle. E per iniziare una dentro questo discorso catastrofe storica, anche perché stasera affronteremo, diciamo, l'abbiamo chiamata anche prima parte, i maledetti 70, proprio perché l'argomento, la tematica, cercheremo anche di riprenderla nella decade successiva e ancora successiva. Dunque questa, diciamo, è una prima puntata dedicata ad arte e catastrofe, e in apertura abbiamo un grande compositore da noi anche estremamente amato e spesso inserito a 451, Klaus Schulze, da un'opera estremamente scura ed inquietante nella sua strutturazione. Schulze riusciva sempre molto bene ad abbinare atmosfere appunto cosmiche, aperte, sognanti e anche, tra virgolette, in un'ottica ottimistica e futuribile, un'ottica spaziale di apertura, anzi di affrancamento rispetto alle miserie umane, e noi ovviamente li riportiamo, ma per una nostra scelta radiofonica, dentro il contesto catastrofista di una crisi capitalistica. E però ha avuto sempre questo rapporto anche con questa oscurità, con questa inquietudine che comunque aleggiava nei suoi lavori, in particolar modo anche in un disco tra i più importanti della scena della musica cosmica tedesca, cioè Cyborg, uscito nel 1973, composto da due vinili, un'opera splendida, ma come tutti i primissimi lavori di Klaus Schulze, oltretutto ricordiamo componente anche di Tangerine Dream e Ashra Temple, musicista assolutamente fondante per tutta una scena musicale che poi ha anche attinto alle sue opere musicali negli anni 90 e successivamente in questi anni zero, soprattutto in una elettronica che fa riferimento alla cosmica e che oltretutto negli ultimi tempi ha avuto anche un ritorno di fiamma, potremmo dire, sempre ovviamente delettizzata con i tempi attuali. Un Klaus Schulze che dunque anticipava, ma per certi versi, molta della musica degli anni 70 che stasera ascolteremo, sente la catastrofe, la vive in un'ottica anche vicina sul presente ma anche sull'immediato futuro. Ecco, ci sono quasi delle anticipazioni sonore di quello che ci stiamo vivendo in termini di malattie mentali e sociali diffuse, causate poi da tutta una sorta di distorsione nell'uso di certe tecnologie, di una certa virtualità, insomma di una certa malattia che viene sempre più pompata da un sistema che vuole annullare le coscienze e le vite poi concrete e reali delle persone. Andiamo, perché sennò parliamo troppo. Klaus Schulze, Cyborg. sembra quasi una dimensione desertificata dal punto di vista sonoro, quella che cerca di rappresentare Klaus Schulze, nell'ottica ovviamente che noi vogliamo riportare all'interno del percorso tematico di stasera di Arte e Catastrofe. Chiaramente la visione schulziana è quella maggiormente connessa alla dinamica cosmica, quella spaziale, dunque all'apertura a universi differenti, lontani, ma sicuramente in un'ottica sonora che stasera cercheremo anche di costruire, quasi una sorta di viaggio sonoro, un percorso che rappresenti la tematica. L'abbiamo scelta non a caso anche come incipit, come entrata di un percorso che adesso abbraccerà un'altra formazione importante sul terreno cosmico. Sì. Schulze, ricordiamo ancora, Cyborg, 1973, un disco sempre da andare a recuperare ciclicamente e a riascoltare. Sì, dicevi bene, c'è sicuramente un'apertura cosmica in Schulze, come in buona parte dei 70, maledetti 70, come abbiamo titolati appunto questa prima parte di Arte e Catastrofe di 451 frammenti sonori, ma c'è sicuramente anche un aspetto wagneriano in tutta l'opera di Schulze, non soltanto come mole e come potenza sonora, seppur appunto le sono anche grandi distese quelle di Schulze, sicuramente c'è veramente un vigore, una forza decisamente notevole in tutta l'opera di Klaus Schulze, e c'è anche un aspetto, ad esempio legato a Cyborg, in questo caso che stiamo ascoltando, di alienazione molto forte. Questo viaggio appunto dentro il cosmo diventa appunto anche un viaggio di distacco, quindi di alienazione, e prende anche delle chiavi scure, non soltanto sonoramente, come appunto diceva Eliseo, ma anche sotto un aspetto, insomma, diciamo di Weltanschauung, citando appunto dalla filosofia tedesca, cioè un senso della vita che comunque viene esposto anche in maniera scura da Schulze. Lo stesso Cyborg, le stesse copertine di Klaus hanno questo aspetto decisamente inquietante, quasi una sorta di cosmo, però volto anche al negativo, queste sorte di uomini mostrificati, cyborg appunto che si impiccano. Ad esempio c'è una copertina bellissima di Time Wind, eccezionale, proprio con questa immagine anche decisamente forte, anche una sorta di espressionismo cosmico anche in Schulze, che arriva a livelli paradossistici. C'è anche un'altra copertina di Time Wind, giustamente Eliseo mi faceva vedere la copertina più conosciuta, ce n'è una che girava in Germania, edizione tedesca, dove appunto c'è questa sorta di impiccagione. Se magari vai su Discogs la becchi, così vi do anche l'input per voi radioascoltatori e chiaramente ascoltatori del blog 451frammentisonori.noblogs.org. Se con Schulze abbiamo trovato appunto questa sorta di viaggio doppio tra apertura però anche alienazione profonda, con Faust l'alienazione e lo strutturalismo che accennavamo prima diventa veramente qualcosa di propeso verso una politicizzazione anche della musica, una estremizzazione, se vogliamo, del concetto sonoro di rumore già negli anni 70, rumore che però non va mai sul white noise, rimane quel rumoreggiare cosmicheggiante, quindi anche in Faust c'è questa apertura, però sicuramente ci sono delle sorte di masse sonore che si muovono in maniera assolutamente inquietante, come si muoverebbero dentro le contraddizioni poi della Germania degli anni 70, che furono piuttosto cocenti, erano figli di buona parte ex nazisti, detta come va detta. Julian Cope nel suo bellissimo libro sul krautrock spiega bene questa sensazione di smarrimento, di alienazione profonda, di angoscia veramente cosmica a questo punto, di molti tedeschi di quegli anni, una sorta di viaggiatori psichedelici che però appunto dovevano fare i conti con quello che era stata la Germania dei loro genitori, una Germania che aveva attraversato uno dei punti, uno dei periodi più scuri della storia dell'umanità, e facendo questa operazione, quindi anche decisamente dolorosa, andarono anche a colpire quelli che erano le contraddizioni fortissime di una società capitalistica che appunto aveva dato anche possibilità poi di fatto nell'ascesa dei nazismi e fascismi, chiaramente. E Faust poi, in maniera paradossale, essendo anch'essi poi a un certo punto per radicalità e d'immagine comunque limitata tacciati di nazismo, abbandonarono le scene, seppur poi dopo anche facendosi una grassa e grossa risata su queste accuse, tornarono in maniera magnifica negli anni 90, recuperati da Jim O'Rourke, eccetera eccetera. E con il Faust appunto si va in quella sorta di distopia sociale che parte della Germania capitalistica dell'Ovest di quegli anni lì, e raggiunge appunto una sorta di alienazione totale dentro appunto immagini assolutamente deflagranti, sia in termini sociali ma anche allargate appunto a una sorta di cosmicità che c'è e c'era come dentro i Faust. Thank you. che siamo stati veramente immersi anche noi conduttori dentro questo viaggio iniziato con i Faust e collegato con un vero e proprio capolavoro tratto da una compilazione del 1990 curata da un'etichetta importantissima come la Mute, che va a recuperare, che dopo te ritroveremo tra infatti l'altro. Anche con uno dei suoi fondatori, e appunto una compilazione del 90 che poi ovviamente riprende degli inediti e dei lavori assolutamente rari di una formazione che è stata fondante per gli anni 70-80 dal punto di vista della musica soprattutto industriale, cioè Cabaret Voltaire, che abbiamo voluto chiaramente omaggiare ed inserire in questo percorso dedicato ad Arte e Catastrofe per la loro vicinanza rispetto a questo tema, non soltanto attraverso i loro lavori sonori, ma anche per coloro che hanno potuto apprezzare e vedere anche i video che hanno costruito, i lavori appunto a livello di immagine, quanto loro fossero in principal luogo anticapitalisti e facessero emergere tutto il lato catastrofista sia presente ma anche possibile nel futuro di questo sistema devastante che gli stessi Cabaret Voltaire utilizzavano come elemento decisivo delle loro rappresentazioni musicali e anche visive. Cabaret Voltaire, dunque, da questo album che recupera questi materiali inediti tra il 1977 e il 1981, si tratta di Listen Up with Cabaret Voltaire, un lavoro splendido, un doppio CD da cui abbiamo estratto due tracce del primo CD che rappresentano molto bene l'idea e appunto l'elemento catastrofista che è il nostro tema fondante di questa serata di 451. Sì, i frammenti in effetti vengono fuori anche da una catastrofe, quella postmoderna, sì. È postmodernista, ci viviamo appunto una sorta di frammentazione totale, su quello poi lavoriamo, ma d'altronde poi pensare alla catastrofe unita all'arte è un discorso che sembrerebbe distante, poi in realtà non lo è affatto, già addirittura dalla drammaturgia greca è il punto culminante risolutivo della trama appunto nella drammaturgia, nella poesia antica greca, e quindi la catastrofe, come dire, prende già alcuni secoli fa forma come possibilità artistica, oltre che chiaramente essere un disastro, un po' barese, vabbè, un evento orribile, insomma, con tutte le conseguenze terrificanti connesse a questo. Catastrofe è un'opera teatrale di Samuel Beckett, Catastrofe potrebbe essere un film catastrofico come quello di un personaggio assolutamente assurdo come Toshi Masuda, giapponese, appunto il catastrofismo poi prendeva un sacco negli anni 70, stiamo trattando proprio questo, i maledetti anni 70, tra l'altro dopo avremo anche dei riferimenti cinematografici. E la catastrofe è utilizzata anche in termini capitalistici. La cosa è abbastanza inquietante, c'è proprio l'obbligazione catastrofica, nota con i termini inglesi di catastrophe bond, che è una obbligazione che praticamente dà un rendimento legato a verificarsi o meno di un evento catastrofico. Cioè, quindi ditemi voi, insomma, qua non parliamo più di arte ma parliamo di soldi sporchi, veramente inzozzati, come magari molti speculatori in questi giorni hanno fatto, appunto legandosi all'evento catastrofico o insomma, come dire, preannunciato catastrofico, quello della Grecia, appunto poi trascinandosi anche l'euro. Quindi c'è una sorta di possibilità anche data proprio all'evento catastrofico, sta dentro le reti esistenziali e non solo quelle, appunto, ma probabilmente anche dentro proprio la vita stessa, l'evento catastrofico è visto anche in termini artistici, quindi di espressione alta, ma anche in termini decisamente più materiali, come appunto abbiamo fatto l'esempio con la catastrofe bond. E parlando appunto di catastrofe, di arte catastrofica, andiamo a prendere un personaggio che intorno alla metà degli anni 70 si trasformò in catastrofico, da Bubblegum Music a Elevator Music, il primo Giorgio Moroder, poi nel 1975 se ne uscì con un disco allucinante come Einzel Ganger, disco veramente pregno di umori montani, da vetta però da suicidio anche, appunto, raggiunta la vetta, poi buttarsi dentro questo vuoto infinito. Einzelgänger di Moroder insegue un po' questa sorta di possibilità, se vogliamo anche negatrice, appunto una sorta di distopia musicale, dentro musica che poi invece prenderanno per molti versi altre faccende con il Moroder, soprattutto negli anni '80, quindi anche trionfale, celebrativo, auto anche celebrativo, perché no. E invece, appunto, già da quell'Einzelgänger e poi con Fuga di mezzanotte, tanto per citare un altro film, prenderanno invece delle pieghe dove chiaramente è sua la colonna sonora, Celeberrimia, dove c'è appunto The Chase. Noi invece, appunto, andiamo a prendere Einzelgänger come punto di rottura, ma anche appunto in chiave di disastro, anche di azzeramento di quello che fu il Giorgio Moroder fino al 1975, e la possibilità, appunto, data attraverso una forma distopica musicale che invece da lì a quel momento prenderà appunto il nostro Moroder nazionale. Thank you.